punto, punto, punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. È esondato il torrente Ferreggiano e scendendo l'acqua ha trascinato tutte le macchine che c'erano in coda e le ha portate praticamente contro gli edifici che ci sono in fondo a Sardegna, De Stefani, Monticelli. Purtroppo qualcuno ha perso la vita in questo incidente. Buongiorno a tutti cari ascoltatori, un saluto ancora da Gigi Donelli, da Peter Bescapè in regia, la voce, uno dei testimoni raccolti ieri poco dopo l'ora di pranzo e appunto trasmessi attraverso Radio 24 per raccontare quello che appunto in quelle ore era ancora una situazione impressionante e pur sempre vaga, perché solamente una zona molto circoscritta della città di Genova veniva investita. Poi naturalmente si è chiarito nelle ore successive. Questa mattina l'avete anche sentito nella rassegna stampa, in fondo il titolo del Secolo XIX, il quotidiano genovese, rappresenta un po' tutti i titoli dei quotidiani in edicola: la morte e la rabbia, quindi una strage di 4 donne, 2 bambine uccise dalla piena. Un'immagine impressionante quella d'apertura sulla prima pagina del Secolo, perché mostra una massa di automobili e di furgoni, una auto della Croce Rossa, tutti ammassati in una città battuta dalla pioggia. Ecco, in queste ore, come avete sentito, dalle 7 di questa mattina, quindi un'ora 38 minuti fa, Genova è ferma, nel senso che è scattato il blocco del traffico, quel blocco che ieri invece non c'è stato e che quindi alimenta oggi anche una parte delle polemiche sulla reazione. Si è parlato di prevedibilità, si parla sempre di prevedibilità o meno di questi eventi. Ieri abbiamo registrato, tra i tanti, un dato: 300 mm di pioggia in circa 90 minuti, qualcosa che secondo le statistiche, questo è un fatto, rappresenta un terzo delle precipitazioni annue sulla città, il tutto in 90 minuti. Questo naturalmente non toglie nulla a qualsiasi riflessione, anzi è a qualsiasi inchiesta doverosa su quanto accade nel territorio italiano, nella parte invisibile, nei sotterranei, nelle zone di scarico. In fondo Genova la conosciamo, chi la frequenta quotidianamente o solo ogni tanto percepisce immediatamente l'effetto di bacino rispetto alle montagne sovrastanti. I torrenti, di cui in queste ore ripetiamo i nomi, si riversano come in un imbuto e si concentrano proprio nel luogo dove ieri appunto l'ondata si è trasformata in un'ondata mortale. In queste ore abbiamo sentito, poco prima di andare in onda con l'appuntamento di Punto a Capo, quella che è la situazione meteorologica. La seguiremo tutto il giorno, perché naturalmente la preoccupazione coinvolge Genova in primo luogo in queste ore, ma la Liguria, coinvolge il Piemonte, coinvolge tutta l'Italia nord-occidentale, battuta in particolare dalle piogge fino alla Sardegna. Tra l'altro, proprio come aggiornamenti degli ultimi minuti, ci parlano anche di temporali, allagamenti, mareggiate anche a Savona, appunto nella provincia di Savona, anche se vi dico subito, non si sono registrati né morti né feriti. Ieri le scuole a Savona erano chiuse. Le situazioni più grave comunque si sono registrate in Val Bormida, quindi sul balcone proprio che si affaccia sul golfo. Abitazioni ai primi piani toccate, sconvolte di fatto dalle acque, anche in diversi comuni della Riviera. Insomma, questa mattina Punto a Capo dunque prende uno spazio particolare, si amplia in una settimana che è stata dedicata da una parte a quello che era già il disastro di 10 giorni fa nelle Cinque Terre e in Toscana, Aulla e altre zone su cui torneremo, ma anche naturalmente su tutto quello che riguarda invece i fatti della politica internazionale, dell'euro, del G20. Parleremo di tutto questo. Prima però vorrei restare su questo tema e condividere con voi una parte di quello che avrebbe avrebbe dovuto andare in onda questa mattina, ciascuno il suo, di Raffaella Calandra, aveva preparato uno speciale dedicato proprio alla settimana che ha trascorso nelle zone alluvionate delle Cinque Terre. Bene, partendo da un punto che è questo: sono talmente tante che su Wikipedia è stata creata una voce ad hoc, sono le liste delle alluvioni e delle inondazioni in Italia. Ecco, Raffaella Calandra ce le ricorda e poi prosegue in una conversazione con il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli. Sentiamolo. Sono talmente tante che su Wikipedia è stata creata una voce ad hoc, lista di alluvioni e inondazioni in Italia, senza andare indietro agli anni della monarchia o ai disastri consegnati ormai ai libri di storia. Dal 1951 ad oggi si contano almeno 36 casi in cui l'acqua e il fango hanno lasciato morti e feriti dietro di sé, da una parte all'altra del paese. In quello stesso anno le alluvioni ci furono prima in Calabria, poi nel Polesine, e da allora in poi, con una media di circa 3 anni, le alluvioni hanno sommerso piccoli centri o grandi città, distrutto opere d'arte e lasciato senza casa migliaia di famiglie. Nel 1966 l'acqua dell'Arno sommerse Firenze con i suoi tesori e uccise 34 persone, secondo le stime ufficiali. Ma prima ci fu il Polesine con 84 vittime. E poi ci sono stati disastri con ancora più morti. Dall'alluvione nel Salernitano del 1954, che segnò la fine della vita per 318 persone, a quelle in Piemonte, Trentino o Marche. O al dramma del Vajont, l'onda che dalla diga sommerse 2.000 persone, con un balzo di quasi 3 decenni, passando per una serie di inondazioni meno catastrofiche, si arriva alla Valtellina dell'estate 1987, con 53 morti, a quella del Tanaro in Piemonte con 70 vittime, e poi la Versilia, Crotone, fino alla lava fredda che soffocò nel 1998 Sarno e 159 persone. Dal 2000 è il Messinese che ha pagato il tributo più alto di vittime per alluvioni, 36 nell'ottobre 2009 tra Scaletta Zanclea e Giampiglieri, 4 le alluvioni del 2010, causa della morte di 8 persone, tra Vicenza e Prato soprattutto. Nell'ultimo anno, prima della Lunigiana e delle Cinque Terre, il fango ha portato morte nelle Marche, a Casette d'Ete e a Roma. La popolazione evacuata è impossibilitata a provvedere autonomamente. Case sventrate, auto trascinate, urla disperate. Cambia il contesto o la regione, ma nelle zone colpite dalle alluvioni le immagini di distruzione si somigliano un po' tutte, come il dolore di chi ha lutti da piangere. Eppure fin troppo si parla della pioggia che è caduta più che della prevenzione che è mancata, riflette amaro Franco Gabrielli, capo della Protezione Civile, 51 anni e una lunga carriera che l'ha portato dalla polizia alla guida del SISD, alla prefettura ed ora ad occuparsi della salvaguardia del paese. E lo fa con la concretezza di chi è abituato a cercare risposte esatte e non la fatalità. In questi giorni troppo spesso ho visto che ci si è attardati sulla quantificazione della pioggia. Quello che noi sottolineiamo come deficit è la capacità dei territori di dare delle risposte adeguate. Questo potrebbe voler dire che il richiamo alla gran quantità di pioggia che è caduta è un po' un affidarsi ad una cultura della fatalità senza andare ad avviare un percorso serio di prevenzione. Sono pienamente d'accordo con lei. Cerchiamo sempre di trovare delle cause esterne, e non a caso da mesi io sto battendo sul tema della protezione civile vissuta e concepita non solo come un diritto ma anche come un dovere che si sostanzia nei comportamenti di ogni singolo cittadino. Eppure l'Italia, che dal 51 in poi ha vissuto drammaticamente almeno 36 alluvioni con centinaia di morti, ogni volta pare non essere pronta affatto e sembra quasi sorprendersi di un fenomeno che pure voi stessi indicate come è un rischio diffuso in modo capillare e che è di frequenza sempre in aumento. Il politico pensa agli elettori, lo statista pensa alle nuove generazioni. In questi anni centinaia di milioni di euro sono stati spesi quasi esclusivamente con l'ottica risarcitoria, cioè si è risarcito chi aveva subito un danno e pochissimo si è investito in termini di messa in sicurezza dei territori e ancora meno in termini di cultura. Per dare un ordine di grandezza. Per quello che sono i dati in nostro possesso, siamo nell'ordine dell'80-20. Solo recentemente, ad esempio, nell'alluvione del Veneto è stato stabilito un limite almeno del 50%, 50% per ristorare i danni e 50% per fare interventi strutturali di messa in sicurezza dei territori. Credo che siano ancora troppo pochi, dovremmo sempre più pensare al domani, anche i territori liguri, lei pensi alla Valle del Magra, negli ultimi 2 anni è stata colpita 4 volte da queste esondazioni. Potremmo dire che la nostra politica è miope e piange lacrime di coccodrillo? Purtroppo così è, troppo spesso si apparecchiano queste sorte di liturgie, doverosamente si piangono i morti, ma che il pianto dei morti del momento è quasi una forma di irrisione dei morti stessi, perché poi, passata l'attenzione del momento, tutti ripensano affannosamente alle proprie cose fino alla volta successiva. In Veneto, che lei ha ricordato, è stato fermato alla richiesta di inserire la difesa dell'assetto idrogeologico nel decreto sviluppo. Ci sono altre urgenze che hanno una maggiore attinenza con quella che è il conseguimento del possibile consenso. Politiche di prospettiva sono molto più incerte e molto più eventuali. Questo era dunque Franco Gabrielli, il capo della Protezione Civile. Raffaella Calandra lo ha intervistato all'interno, come vi ho anticipato, di un approfondimento, di un programma che appunto abbiamo di fatto integrato in questa diretta per continuare gli aggiornamenti. A ciascuno il suo, comunque lo trovate nella sua versione integrale sul web di Radio 24, radio24.it. Punto e a capo. E riapriamo naturalmente da Genova questa mattina con un ultimo aggiornamento. Arriva dall'assessore alla Protezione Civile del Comune di Genova, Francesco Scidone, che chiede, dice: oggi in base alle previsioni dovrebbe essere una giornata come quella di ieri, il che non è davvero promettente. Speriamo che non sia così. Chiediamo comunque ai genovesi di non muoversi, di muoversi da casa solo se strettamente necessario, limitando al massimo tutti gli spostamenti. Dunque, abbiamo sentito gli aggiornamenti meteo e noi adesso invece torniamo nel capoluogo ligure. Andrea Ferro, ancora buongiorno. Sì, ancora buongiorno da Genova. Tornato a piovere allora, le sentiamo. Sì, infatti, da un'ora e mezza su alcuni quartieri della città è tornata la pioggia, anche se le precipitazioni al momento sono piuttosto deboli. La costa è flagellata da una violenta mareggiata di scirocco, condizione molto sfavorevole in caso di nuove piene dei torrenti. Le onde infatti battono contro il litorale ostacolando il deflusso dell'acqua, perché c'è il timore, come diceva anche l'assessore, e tu hai riportato poco fa le sue parole, è un timore che riguarda peraltro tutta la Liguria, è fondato sulle elaborazioni delle immagini del satellite, che entro le prossime 24 ore il cielo possa scaricare un'altra bomba d'acqua su una zona circoscritta. Come è accaduto ieri a Genova, tra i quartieri del Levante, la Val Bisagno e il centro, e come era accaduto il 25 ottobre nello Spezzino e in Val di Magra. In città la notte è trascorsa spettrale, strade deserte, alcune ancora buie, a rischiararle i lampeggianti dei mezzi di soccorso impegnati nei prosciugamenti, nei sopralluoghi per le frane, nel ripristino appunto dell'erogazione dell'energia elettrica. Come abbiamo detto nel corso dei precedenti GR, dalle 6 di questa mattina su tutto il territorio comunale è vietato il transito alle auto private. L'ordinanza del comune resterà in vigore fino a cessate esigenze, un termine burocratico che vuol dire sostanzialmente fino a che resterà attiva l'allerta, e quella generale meteo di livello 2 scadrà, salvo aggiornamenti, a mezzogiorno di domani. Ora bisogna valutare appunto le risultanze dei prossimi bollettini meteo. A Marassi, il quartiere dello stadio, un giorno di lutto per i 6 morti della piena del torrente Fregiano. 2 bambine albanesi di 1 e 8 anni, la loro madre di 28 che erano appena uscite da scuola sotto il nubifragio, una ragazza di 19 anni che nella stessa scuola era andata a prendere il fratello che invece si è salvato, un'infermiera di 40 anni e una edicolante di 50. Feriti decine, 5 i ricoverati, tra i quali un bambino di 12 anni. Vi aggiorno la situazione del resto di Liguria, continua a piovere nel Savonese, in Val Bormida in particolare. Nelle zone alluvionate dello Spezzino e della Val di Magra la notte è trascorsa con grande apprensione alla luce di quello che è avvenuto ieri a Genova, ma al momento senza ulteriori conseguenze. Dall'alba un violento temporale si è abbattuto sulla città della Spezia, qualche allagamento, ma non ci sono situazioni di particolare pericolo. Andrea Ferro, che lo ricordo, è appunto da ieri che ci aggiorna di fatto costantemente su quanto accade a Genova, che ieri è stato testimone oculare dell'impatto di questo fiume che si è riversato in città e ha raccolto le testimonianze. In questi momenti, Andrea, vedo anche ci sono delle agenzie che riguardano il sindaco. Io non ho colpa, la responsabilità. Naturalmente vorrei lasciare da parte tutto questo. Vorrei invece chiederti una cosa. Ho detto che una segnalazione del comune ha parlato di 300 mm di pioggia in 90 minuti. Ora, dal punto di vista di un cittadino genovese, la pioggia che avete visto ieri è davvero, che chiaramente non è un fatto statistico, ma è stata davvero impressionante, fuori dalla norma? Sì, io ero un bambino nel 1970, avevo 5 anni quando ci fu la disastrosa alluvione. Chi ha la possibilità di ricordare, di comparare, diciamo così, questa atmosfera praticamente abbina le due situazioni, cioè quello che è accaduto ieri era accaduto 41 anni fa. Con la differenza, Gigi, che all'epoca la pioggia iniziò nel tardo pomeriggio nella zona di Voltri e poi proseguì per tutta la notte, per il mattino successivo nel resto della città. Quindi ora non ho un dato statistico, certo, del passato, però da quello che posso capire che ci furono, mi sembra, 500-600 mm, però in un arco di tempo più superiore. Ampio. Punto e a capo. Sono le 9:07, ancora un saluto da Gigi Donnelli in studio questa mattina, da Peter Bescapè in regia, tra un momento da Andrea Ferro, da cui torniamo a Genova e con il quale stavamo parlando della violenza della precipitazione. Da una parte c'è sicuramente questo elemento, la concentrazione delle piogge, si parla di bomba d'acqua, ormai è un termine, come dire, un'espressione mutuata dal mondo anglosassone e americano, ma c'è anche invece, vorrei parlare di un altro elemento, che è quella della prevenzione individuale. Un'amica di Radio 24 ci scrive con un SMS, dice: ma insomma, in questo caso c'era un'informazione ed era stato detto non muovetevi se non c'è necessità assoluta. D'altra parte abbiamo anche ricordato, le scuole erano aperte, cosa che per esempio a Savona non è accaduto. Nelle ultime ore il sindaco di Genova dice: io non ho colpa, l'ho ripetuto ieri, l'ho ripetuto in serata per le interviste dei quotidiani, dice: tutti gli allarmi erano stati dati, la situazione era monitorata, era impossibile prevenire la tragedia perché il torrente Ferreggiano è passato da 1 metro a 4 metri in un'ora. Allora, Andrea Ferro, ancora un saluto, un buongiorno, grazie dei continui aggiornamenti che ci porti da Genova. Il messaggio di prevenzione era arrivato alla cittadinanza a Genova? Ma senz'altro le immagini delle terre avevano generato un grosso timore, addirittura una psicosi, come è inevitabile che accada in queste circostanze. Però la questione dell'apertura delle scuole, di cui parlavi poco fa, è centrale per la vita di una città, e questo chiaramente non avviene a Genova, avviene in qualsiasi centro urbano in Italia e all'estero. Nel momento in cui le scuole sono aperte, inevitabilmente poi ci sarà da andare a prendere i bambini. Quindi ieri suonava un po' incomprensibile a un certo punto il messaggio della Polizia Municipale: se potete non uscite di casa. D'accordo, però i bambini, io ne parlo anche da papà con i certo, bambini sì, a scuola, che facciamo? Li teniamo lì e poi chiamiamo, sentiamo se trascorrono la notte con le maestre? Cioè, inevitabilmente in una situazione di emergenza totale tutti abbiamo pensato in qualche modo ad andare a recuperare i bambini, è logico, è normale, è doveroso. Certo, le scuole sono un metro nella nostra vita quotidiana, insomma, se c'è qualcosa di davvero grosso a scuola non si va, se si va a scuola si può andare anche per strada, si può andare magari anche in automobile, come ieri abbiamo visto, credo in tutta Italia, non solo, le impressionanti immagini di un traffico normale che veniva sconvolto da una strada diventata fiume. La sensazione non era di una città che aveva ridotto il suo traffico. No, anche perché comunque è una città che aveva i suoi ritmi inevitabilmente regolari, chi doveva andare al lavoro non poteva chiamare e dice piove, non vengo a lavorare. Cioè, voglio dire, in queste situazioni i piani preventivi o sono radicali, per esempio stamattina è in atto un piano cautelativo abbastanza clamoroso, pensate il blocco del transito delle auto private, praticamente mentre vi parlo è una città fantasma con la gente che cerca qualche negozio aperto, devo dire che nella stragrande maggioranza della città la vita è normale, ci sono solo i mezzi di soccorso, i taxi, gli autobus, oltretutto la circolazione dei mezzi pubblici di AMT è ripresa pressoché in maniera regolare, vi ripeto, ora la città è paralizzata in attesa di qualcosa di grave che speriamo non avvenga. Ieri invece era una città normale che è stata poi travolta in maniera tragica dall'emergenza. Inevitabilmente i genovesi in queste ore vivono un po' questa enorme differenza tra una città lasciata, diciamo così, in una condizione normale e poi il giorno dopo scuole chiuse, strade interdette al transito privato, una misura, ripeto, che io francamente non ricordo se non in occasione 2 o 3 anni fa di un gelicidio. Ecco, a proposito però dell'errore di valutazione, Gigi, se ancora un istante, dell'errore di valutazione che viene contestato all'amministrazione. Qualche anno fa, in occasione di una grande nevicata, e come sapete Genova non è una città attrezzata per eventi di questo genere, il comune aveva deciso la chiusura preventiva delle scuole alla vigilia, ripeto, di un fenomeno che avrebbe dovuto avere caratteristiche eccezionali. Poi in realtà la nevicata fu molto debole e in città ci fu il mogugno classico genovese della serie, questi sono terroristi, allarmisti. Io credo che quell'episodio abbia condizionato non poco nella giornata di giovedì la decisione della giunta comunale di non rischiare di commettere di nuovo quell'errore. E vale anche la pena di ricordare che, come dicevano, come ripetevano ormai da giorni gli esperti del meteo, questa perturbazione di estensione e di intensità indubbiamente eccezionale, perché era chiaro che si trattasse di un fenomeno di questo genere, potrà poi scaricare i suoi effetti in un raggio circoscritto, però nessun modello elaborato al computer poteva indicare dove e quando. Certo. E quindi voglio dire, ci sono stati comuni, come dicevi, nel Ponente, in particolare in Imperia e Sanremo, dove poi sono state precipitazioni debolissime che hanno tenuto a casa gli studenti e altri che non l'hanno fatto. Tra l'altro uno dei titoli, proprio io citavo ovviamente il secolo XIX questa mattina più di una volta, in primo piano non volevamo fare terrorismo, questo è un virgolettato del sindaco Vincenzi. Gli ascoltatori dicono, tra l'altro Gianluca da Milano dice, sarebbe bastato chiudere la scuola vicino al torrente esondato per salvare 4 persone, altro che fatalità. È semplice, esattamente. Ecco, c'è da dire una cosa, questa zona è la stessa, forse vale la pena ricordarlo, tu hai citato anche le tue memorie personali, gli anni 70, noi abbiamo sentito anche, come dire, all'interno di Radio 24, chi ha vissuto e ha ricordato gli eventi degli anni 70, quella è una zona delicata, a rischio, chiamiamola, diciamo come ci pare, ma insomma una zona in cui acque convogliano e si concentrano in una zona appunto pericolosa, quindi da questo punto di vista non è una novità in termini di area colpita. Sì, non è una novità in termini di area colpita, però l'anno scorso ad ottobre le esondazioni riguardarono il Ponente, la zona di Sestri Ponente, e non il Bisagno. Ripeto, sì. La concentrazione dei fenomeni nella sua manifestazione più forte e poi determina situazioni in micro aree, tragiche micro aree, ma per dire ieri nel Ponente genovese la pioggia era intermittente. Certo. Questo per spiegare anche la problematicità di certe decisioni. Assolutamente, diciamo, assolutamente. Su questo credo che, tra l'altro tu hai detto prima, noi genovesi mugugniamo eccetera, ti posso, come sai benissimo, questo riguarda l'intera nazione, laddove c'è un blocco traffico, che sia per le concentrazioni delle polveri, insomma il diritto assolutamente legittimo da tutelare al movimento degli italiani è molto sentito da tutti noi. noi e naturalmente ci vuole un attimo a dire qui l'ultima memoria, ricordate che cos'è accaduto a New York, il passaggio, visto che comunque è una città lontana ma che noi viviamo mediaticamente come vicina, insomma il grande allarme, non è successo nulla, hanno perso un sacco di tempo. Torniamo tra un momento con Andrea Ferro, adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade, gli aggiornamenti appunto delle strade in diretta. Punto e a capo. Eccoci dunque ancora aggiornati e continueremo a farlo, continuate a farlo attraverso la radio, continuate a come dire, memorizzare il fatto che adesso stiamo parlando ovviamente di Genova con Andrea Ferro in collegamento in diretta dal capoluogo Ligure, ma le situazioni delicate riguardano un'area molto più ampio. Insomma, arrivano messaggi, Andrea, sul video che, come ho accennato, credo abbia veramente fatto il giro del mondo, persone che attraversavano la strada a piedi con un metro d'acqua, qualcuno dice più prudenza, qualcuno ci scrive come Giuseppe da Torino che dice si vergogni il sindaco, è un controsenso, non muovetevi, lascia aperte le scuole. Sicuramente questi saranno, credo, i fattori centrali di una polemica. Abbiamo detto che le scelte delle amministrazioni sono maledettamente complicate e che ne sono certo, che in Italia se c'è un grosso problema che è una cultura della prevenzione, una cultura del portarsi avanti nel fare le cose. D'altra parte c'è un dato che abbiamo ripetuto credo più volte nelle ultime ore: siamo un paese che spende l'80% dei fondi per il risarcimento delle vittime e il 20% per la prevenzione e la tutela del territorio. Mi sembra che le due cose siano assolutamente collegate. Andrea, se ci sono aggiornamenti ti lascio a te la parola. Ma guarda, direi... confermo che sta piovendo, piove ormai dalle 7:20. In una città deserta? La città è completamente deserta, no. Ma nel senso c'è solo un transito pedonale, e il traffico è limitato alle auto autorizzate e chiaramente ai mezzi di soccorso e i mezzi pubblici. Si stanno ripristinando, voglio dire, i collegamenti dell'erogazione dell'energia elettrica, molte case, molte strade stanotte sono rimaste al buio. Una nota che dimenticavamo di dire nel precedente collegamento: è stata completamente riaperta la stazione di Brignole, la stazione ferroviaria di Brignole, che ieri pomeriggio a un certo punto è stata chiusa su disposizione della Protezione Civile. La stazione Brignole, chi è passato da Genova forse la conosce, è praticamente sopra l'ultimo tratto che poi diventa interrato del Bisagno, quindi una zona a grande rischio idrogeologico. Questo è il quadro. Arrivano notizie dalla Spezia nel frattempo di precipitazioni piuttosto intense, però per il momento non ci sarebbero problemi particolari in un'area peraltro già fragile, già disastrata, assolutamente, che è quella dello Spezzino e della Val di Magra. Gigi, per il momento il quadro da Genova questo. E dalla Liguria è questo. Grazie ad Andrea Ferro, buon lavoro. Lo ricordo, tra l'altro lo potete ritrovare www.radio24.it, avete ritrovate molti tra i racconti che Andrea Ferro appunto ha fatto dalla giornata di ieri, gli speciali di Radio 24 dei miei colleghi. Ecco, trovate naturalmente anche quello che riguarda invece quanto accaduto martedì di due settimane fa, quindi lo Spezzino, Monterosso, trovate appunto il fatto precedente, se vogliamo, molto vicino, e sul quale torniamo adesso per qualche minuto. Vi ho fatto sentire circa mezz'ora fa una parte dell'intervista che Raffaella Calandra ha fatto con il capo della Protezione Civile Gabrielli. Come vi ho detto, oggi abbiamo modificato il palinsesto, quindi a ciascuno il suo, non è andato in onda come di consueto tra le 8:30 alle 9, ma potete trovare la puntata integrale sul web. E invece vi faccio sentire un passaggio di questa conversazione, perché affronta un aspetto molto preciso, che è questo: piove e la gente ha paura. Ma è normale che in un paese come il nostro, appunto, per fortuna piove tanto, quindi abbiamo l'acqua, ma comincia a piovere e la gente abbia paura. Sentiamola. È normale che in un autunno che normalmente appunto è caratterizzato da precipitazioni ci siano persone come cittadini di Aulla che mi hanno raccontato di vivere ogni volta con l'ansia di dover lasciare la casa all'ultimo momento, che l'anno scorso sono scappati da casa loro 3 volte per il rischio di alluvioni. Qual è il problema? Non sono case abusive, ma è una forma di abusivismo legalizzato, potremmo definire. In un paese dove i condoni non mancano e dove sono abbastanza reiterati, per cui se uno la casa l'ha costruita in un luogo dove non doveva costruirla e poi questa viene condonata e sanata, poi si realizzano queste situazioni. Leggevo il commento che il procuratore della Repubblica di La Spezia o di Massa Carrara, a seguito di un sorvolo fatto nella Valle del Magra, sottolineava con sconcerto come innumerevoli abitazioni, manufatti e quant'altro si trovavano in zone chiaramente a rischio. Se si fanno insediamenti industriali come quelli sul Magra e tutte le volte si va sotto, poi è complicato dire si mette a rischio l'occupazione, la produzione. Signori miei, ma se voi avete costruito e realizzato laddove non era corretto costruire. Quindi secondo lei, prefetto, queste vittime delle alluvioni in Italia sono anche un po' il prezzo della politica del condono? Sicuramente sì. Nera che porta via la via. Nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce nera. Lungo il fiume Magra in Lunigiana, l'ultima alluvione ha bloccato il progetto di costruzione di un grande outlet e sono tante le case, anche popolari, edificate molto vicine agli argini che più volte, solo negli ultimi anni, non hanno retto. A Vernazza, nelle Cinque Terre, sotto accusa ora dopo il fango, è finito un parcheggio, come a Monterosso, l'antica costruzione di una stradina che è andata a coprire l'originario torrente, caro a Eugenio Montale. Per non andare a citare i palazzi di Sarno o le case abusive del Messinese. Forse, anche se in realtà più o meno indietro nel tempo, c'è un'unica politica, quella che poi porta al piano casa. Tutta la sua elencazione purtroppo è difficilmente contestabile. Lei ha diramato circolare per sollecitare più coordinamento e più informazione. Perché non c'era, non era sufficiente? Sono note che il Dipartimento fa tutti gli anni e questo secondo me non è una cosa molto positiva, perché se tutti gli anni dobbiamo ripetere le stesse cose, quasi in una sorta di mettiamoci le carte a posto, e evidentemente come è avvenuto non sempre tutto il territorio cui ci rivolgiamo è pronto a recepire queste istanze, si conferma che noi dobbiamo fare ancora un bel lungo tratto di strada. Cambierebbe qualcosa se gli amministratori locali, dai sindaci agli enti locali di vario tipo, sarebbero in qualche modo anche chiamati ad essere responsabili, anche penalmente eventualmente, degli effetti delle alluvioni? Basterebbe prendere la sentenza Sarno, che è una sentenza della quarta sezione penale della Cassazione, che sancisce in maniera inequivoca le responsabilità penali degli amministratori, da un punto di vista di quello che non è stato fatto prima e quello che non è stato fatto in ambito di protezione civile. È applicata la legge, mi pare. Ma è lo stesso problema che abbiamo per qualsiasi altra tipologia di reato. Io credo fortissimamente, soprattutto in questi temi, che più che le leggi, e la differenza la fa la cultura. Franco Gabrielli è il nuovo capo della protezione civile, dunque parlato della responsabilità degli amministratori, cosa che peraltro risponde al tono, alla maggior parte di sms che mandate questa mattina, che riguardano appunto che sono per lo più rabbiosi e che dicono è ora di finirla con i politici che non pagano, che come vi ho detto prima si vergogna il sindaco di Genova, eccetera eccetera. Responsabilità, ruolo degli amministratori pur nelle complessità. Io insisto su questo punto, non che non sia d'accordo su quest'altra parte, ma sul fatto anche di una cultura, qui Gabriele lo dice chiaramente, una cultura della prevenzione, una cultura della programmazione territoriale. Lo ripeto ancora una volta, 80% di tutto quello che spendiamo per questi disastri vanno a risarcire le vittime, che ovviamente hanno diritto ad essere risarcite. Mi riferisco a chi si trova la casa distrutta, a chi appunto perde il sostegno della famiglia, ma solo il 20% per la prevenzione e la tutela del territorio. Dopodiché le cose succedono. Ecco, siamo arrivati intanto quasi alle 9:27 minuti, ci prepariamo anche a cambiare pagina, perché naturalmente Punto a Capo sono è il nostro appuntamento, il vostro appuntamento settimanale, spero, con tutto quanto accaduto nella settimana. Oggi abbiamo in qualche modo rivoluzionato il nostro palinsesto, però poi vorrei parlare e ripartire, ricordarvi quanto accaduto invece sul fronte dell'euro, sul fronte di un incontro, quello del G20 a Cannes, che sembrava per certi versi un vertice europeo, ma era appunto un G20, quindi l'incontro delle 20 economie più importanti, almeno in termini di PIL, del mondo, qualche cosa che riunisce i 2/3 della popolazione mondiale, oltre l'80% del PIL complessivo, pensate, in soli 20 paesi, e che non so quanti di voi abbiano visto la rituale foto finale. Le foto finali sono sempre interessanti, di solito c'è chi scherza, c'è chi ride, chi fa più o meno il brillante. Beh, c'era un'aria, vi assicuro, che cupa, una serietà, e alcuni, molti, facevano anche fatica addirittura a sorridere. Punto e a capo. G20 a Cannes, dunque, in questa settimana, tra, come dire, le cose da mettere da parte, da ricordare. G20, vi dicevo, foto di famiglia che era molto chiara su la complessità dei temi affrontati, naturalmente l'Europa al centro di questo incontro tra le 20 economie più sviluppate, l'FMI, banche, insomma. Tutto questo raccontato nel giorno di giovedì da Sergio Nava. Sentiamo questo primo punto. Si j'avais à qualifier l'atmosphère, je dirais qu'elle était grave. Un'atmosfera grave. Il presidente francese Nicolas Sarkozy ha così riassunto, scuro in volto e visibilmente esausto, la prima giornata di un summit letteralmente preso in ostaggio dalla crisi greca. L'Europa ha occupato quasi interamente l'agenda, al punto che lo stesso Sarkozy ha affermato: Nous ne pouvons pas accepter l'explosion de l'euro. Non possiamo accettare l'esplosione dell'euro, significherebbe l'esplosione dell'Europa. Abbastanza scarsi i risultati della prima giornata a Cannes, anche se il lavoro appare in fieri. Si discute la creazione di una linea di credito anticrisi in sede FMI fino a 1.000 miliardi di dollari per assicurare liquidità a breve termine ai paesi sotto tiro dei mercati, una misura disegnata quasi ad hoc per l'Italia. Il G20 ribadirà nelle conclusioni l'allarme sull'economia globale e dovrebbe lanciare un piano in 6 punti per la ripresa. Sarkozy si è detto ottimista su un'intesa con Barack Obama per un introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie. Spazio anche per l'altro osservato speciale, l'Italia. Nelle bozze di conclusioni Roma si impegna a raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013, ma la credibilità della penisola non è più scontata. È vero che, per dirla con Sarkozy, c'è fiducia nell'economia italiana, la terza d'Europa, ma è anche vero che non importa cosa ci sia scritto nel pacchetto di misure presentate dal premier Berlusconi a Cannes, serve che vengano attuate, precisa Sarkozy, senza fare più sconti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E naturalmente tra le cose da ricordare, forse senza particolare sforzo da molti, di questa settimana, quanto accaduto martedì sulle borse europee, quella di Milano in particolare, ma insomma ad ampio spettro ha riguardato davvero l'Europa. L'effetto era quello del referendum greco, cioè la decisione, l'annuncio fatto, lasciato trapelare domenica sera, poi confermato lunedì durante la giornata, diciamo conclamato il lunedì sera, sulla decisione da parte del governo Papandreou di sottoporre a giudizio popolare il pacchetto che di fatto il primo ministro greco aveva accettato nell'incontro della settimana precedente a Bruxelles. Insomma, un vero e proprio terremoto. Sentiamo Ceo Condina del Sole 24 Ore. Ieri il FTSE MIB ha perso il 6,8% e l'All Share il 6,1%. Per Piazza Affari è stata la peggior seduta di sempre dal crack di Lehman Brothers, quando tracollò dell'8,2%. Giornata shock per i titoli bancari, con Intesa San Paolo e Unicredit, che sono crollati rispettivamente del 15,8% e del 12,4%. Per entrambi è stata la peggior seduta di sempre. A Piazza Affari si sono invece salvate soltanto le utility, con Enel Green Power che ha ceduto l'1,5%, chiudendo a 1,66 euro, miracolosamente sopra il prezzo del collocamento in borsa avvenuto un anno fa. Ceo Condina da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dunque si dice Grecia, si legge Roma molte volte in questi giorni, quasi che, e in realtà molti commentatori l'hanno espresso, se da un lato la Grecia è un malato conclamato che per il quale è stato in qualche modo definito una terapia precisa, il caso italiano è ben più complesso, complesso per le sue dimensioni, per le sue caratteristiche. Una delle idee, uno dei temi dibattuti in questa settimana riguarda un po' il concetto del too big to fail, cioè troppo grande per andare in fallimento. È ormai un classico ripreso da un fortunato grande volume dedicato invece alle crisi 2008 delle grandi società americane, ma insomma qualcuno l'ha ripreso più o meno esplicitamente dicendo insomma qualunque cosa possa succedere e l'Italia è troppo grande per poter fallire. Allora vi faccio risentire il capo economista dell'OCSE, Pier Carlo Padoan, sentiamo cosa ne pensa. Pensare che nessuno ci farà fallire perché siamo troppo grandi come italiani è un gioco veramente pericoloso. Siamo noi i primi a dover prendere le misure necessarie per uscire da questa crisi. Se un paese grande dell'Europa, qualunque esso sia, fallisce probabilmente l'intero progetto dell'euro. Siamo disposti a far fallire l'euro o no? Però questo significa anche che se si risponde non lo vogliamo far fallire, bisogna pagare i costi per ottenere i benefici. Abbiamo già aspettato troppo. Qui va presa azione decisa a livello europeo. Cifre chiare, meccanismi chiari, e questo ancora non c'è. Siamo disposti a far fallire l'euro? Questa è un po' un'altra delle questioni che evidentemente qualcuno in qualche modo ha anche accarezzato e continua a fare nel corso delle settimane in Italia e non solamente. Ma torniamo al nostro racconto della settimana attraverso le voci, le interviste e i racconti che sono stati trasmessi da Radio 24. Sempre nella giornata di mercoledì interviene un ospite particolarmente autorevole, ex primo ministro, già presidente della Commissione europea, parlo di Romano Prodi, e parla, devo dire, in maniera anche abbastanza sorprendente della coppia Merkel-Sarkozy, che definisce una vera e propria coppia diabolica anti-italiana. Ma insomma, critiche su questo fronte al dumvirato europeo che ormai ci sta abituando ai prevertici e a incontrarsi prima di qualsiasi incontro a 27 o a 17 se riguarda invece l'euro, ma critiche che non si fermano a questa coppia, sentiamolo. Sarkozy e la Merkel sono stati, secondo me, diabolici in questi mesi, perché rendendo l'Europa da un'Europa comunitaria in Europa intergovernativa, si rende conto che ormai noi abbiamo accettato il prevertice, che detta tutto, poi un prevertice per modo di dire, perché è un prevertice in cui lei detta le regole e lui fa la conferenza stampa, insomma si usa una simmetria contro l'Italia che fa spavento, però è come sparare sulla Croce Rossa. Ma non vede che ogni giorno c'è un discorso diverso, non si sa che cosa si faccia e che cosa non si faccia. Il ministro dell'economia è latitante, lui era partito male, aveva acquistato una certa serietà internazionale, una certa fiducia, negli ultimi tre mesi ha rovinato tutto. E questo era Romano Prodi su Merkel-Sarkozy, su Tremonti che qualche momento fa in una agenzia, attraverso un'agenzia Parla, dice alcuni siti internazionali oggi riprendono una frase che il ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti avrebbe rivolto al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Si tratta di un'affermazione virgolettata apparsa sulla stampa italiana il giorno precedente, totalmente priva di fondamento e quindi falsa. Così il portavoce del ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti. Ci torniamo tra un momento anche per associare questa smentita alla frase. Intanto, a proposito di Tremonti, un intervento di Giuliano Ferrara in questa settimana ne parla come di una salamandra, sentite. E perché Tremonti vorrebbe la testa di Berlusconi? Tremonti ha quella personalità lì, è una salamandra che passa attraverso il fuoco, era socialista, è diventato liberista e antifiscale leghista, poi è anche un pochino antimercatista, anticapitalista. era del patto segni, voleva rinnovare l'Italia in una certa direzione, poi passò con Berlusconi, ne diventò ministro, era contro le banche, poi con le banche. Insomma, Tremonti è una personalità, diciamo, fortemente disturbata, e fa un calcolo cinico, sbagliato peraltro, che lo porterà alla sconfitta. Il calcolo è rimanere in piedi nelle macerie diciamo dell'esperienza Berlusconi. Cioè, crolli tutto perché rimango in piedi io. Però non è invece, qualcuno dice, un realista, cioè un Tremonti che dice a Berlusconi il problema sei tu, cioè di credibilità proprio all'estero, se fai un passo indietro ci salviamo tutti. Ma guardi, quando diciamo uno riempie di palate di fango un Presidente del Consiglio, effettivamente indebolisce un pochino la credibilità del governo. Quando uno impedisce al Presidente del Consiglio di fare quello che aveva promesso, cioè una politica di riforme liberali per la crescita e per lo sviluppo, effettivamente indebolisce la credibilità del governo. A questo punto l'alternativa è molto semplice: o si fa un nuovo pasticcio, un nuovo governo Dini, comunque mascherato, che per qualche mese tira avanti con una finta coalizione di consenso organizzata dai mass media, oppure si va a votare e si decide definitivamente. Però si salva il principio per cui i governi li fanno gli elettori. Vota? E questo, come l'avrete anche riconosciuto, era Giuliano Ferrara, ospite di Alessandro Milan. Per quanto riguarda la smentita, la falsa frase attribuita ad alcuni siti che il portavoce del Ministro dell'Economia cita, evidentemente si riferisce a quella ripresa dal sito del Financial Times, che sostanzialmente dice: Silvio, se resti i mercati crollano, e gli dice dimettiti entro lunedì. Questo è il virgolettato che troviamo appunto su www.fft.com sotto, all'interno di un articolo intitolato Berlusconi sotto pressione al G20 e a Roma e anche a casa. Torniamo sulla dimensione europea della crisi e della specificità italiana. Mercoledì 2 novembre, l'Italia vista dall'Europa attraverso la voce del professor Daniel Gross del CEPS, il Center for European Political Studies, quindi il Centro per gli Studi Politici Europei di Bruxelles. Sentiamo cosa ha detto. Appare abbastanza evidente che questo governo non ha più la credibilità né dell'Europa né dei mercati. Ci vuole o un governo nuovo o lo stesso governo che faccia le cose molto diversamente. E, di nuovo, è qualcosa sul quale l'Europa ha poca influenza. Può solamente star a guardare e sperare che l'Italia si dia un colpo di reni, e per il momento non lo si vede, non si vede né da parte del governo né per il momento neanche da parte dell'opposizione. Sembra che tutti i partiti e i partitini siano in un gioco continuo di trarre un massimo di vantaggio da questa situazione invece di pensare al bene comune del paese. L'un contro l'altro armati, quindi dice un governo di grossa coalizione, di grande coalizione? O tecnico. Un governo tecnico, uno di grande coalizione, o un nuovo governo, questo io starei a vedere. È quello che coglie il massimo di adesione sociale e politica che possa fare per fare le riforme possibile. Quanto reggiamo altrimenti così, secondo lei? Poi il tempo stringe, il tempo si conta oramai in settimane, perché se la situazione non migliora l'Italia si troverà sui mercati che non gli danno più niente, e a questo punto l'Europa non potrà rispondere, perché le somme richieste per l'Italia sono semplicemente troppo grandi. Daniel Gross, direttore del CEPS di Bruxelles, ospite in questo caso di Sebastiano Barisoni a Focus Economia. Adesso torniamo per un momento, per quanto serve in questo momento specifico, sul capitolo Genova. Vi anticipo naturalmente nel GR delle 10 i nuovi collegamenti e tutti gli aggiornamenti, ma volevo soltanto dirvi che ci sono delle novità anche che riguardano la riapertura del casello autostradale di Genova Est. Insomma, situazione in miglioramento per quanto riguarda la viabilità. Punto e a capo. Bene, abbiamo sentito insieme gli aggiornamenti da Fabio Farinelli questa mattina, continueremo naturalmente a farlo negli appuntamenti canonici e sempre quando sarà opportuno. Intanto continuiamo anche a ricevere i vostri sms che sono preziosi, di cui vi ringraziamo. Umberto, camionista, dice: sono un camionista, ho perso 3 giorni per i blocchi al traffico a Ventimiglia, e dice che vergogna. Fiorenzo invece dice: a Chiavari 32 km da Genova, dalle 4 è iniziata la pulizia delle strade, intorno alle 7 i netturbini puliscono i tombini, il traffico è limitatissimo, negozi semivuoti, direi tutto ok, punto esclamativo, controllo a vista il tempo, me ne sto in casa con Radio 24 che mi fa compagnia. Grazie Fiorenzo, grazie dei vostri aggiornamenti. Dunque, stavamo parlando del tema, di fatto, di quello che avrebbe dovuto essere il tema centrale della settimana, se non fosse appunto esplosa questa emergenza in Liguria, di una settimana che porta, come dire, che si conclude con termini che sono commissariamento, che sono controllo, che ancora una volta sono oggetto di incertezza, in questo caso tra il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, la signora Lagarde, e il presidente Berlusconi, circa la disponibilità, l'offerta o meno di fondi all'Italia per affrontare la crisi. Ma noi riprendiamo il nostro racconto attraverso le voci che abbiamo avuto in onda questa settimana e ripartiamo proprio dai 18 mesi dai quali parliamo della crisi greca. Salvatore Bragantini, che è economista, rappresenta l'Italia su designazione della Consob nel Market Parity, nel CSR, di fatto il panel consultivo del mercato dei regolatori europei, ha da dire qualche cosa a proposito di Grecia e di come l'Italia si sia attrezzata alla crisi. Sentiamolo. Questo va pure detto, che la crisi greca è scoppiata a fine aprile del 2010, quindi sono passati 18 mesi da quando è scoppiata la crisi greca. Ebbene, per questi 18 mesi abbiamo continuato a sentirci dire che noi avevamo i conti migliori di tutti, che la ricchezza privata italiana non ha uguali. Bene, se io fossi un tedesco direi: cari ricchi italiani, avete una ricchezza senza uguali, usatela, pagatevi il vostro debito. Questa è la situazione nella quale ci siamo messi. Io credo che siamo in una situazione nella quale ogni situazione, ogni soluzione possibile appare impossibile, eppure qualcuna ha da esserci. L'unione fiscale è diciamo remotissima, anche perché immagino che i tedeschi diranno: ma questo primo ministro Berlusconi lo hanno eletto gli italiani o ha fatto un colpo di Stato? Quindi è per questo che io credo che il passaggio davanti al quale siamo oggi sia un governo di unità nazionale, al quale chiaramente allude la nota di Napolitano di ieri. Credo anch'io che la soluzione più, cioè l'unica che ha la potenza di fuoco è la banca centrale, però pensare che la banca centrale possa fare da diciamo fornitore di risorse illimitatamente è una cosa semplicemente fuori di senno, ed è impossibile pensare che lo faccia Mario Draghi. Mario Draghi, che questa settimana ha debuttato a pieno titolo, il primo del mese, come appunto ai vertici della BCE. Il tema della credibilità, dunque, un fattore basilare, un fattore centrale in tutta questa vicenda. Ne stiamo parlando moltissimo per Gianfranco Pasquino, ospite di Oscar Giannino questa settimana a 9 in punto, una merce assolutamente da rivalutare. La politica, così come l'economia, è fatta da uomini e donne, e quindi c'è anche un elemento che è inutile negare, cioè il Presidente del Consiglio in Europa ha scarsissimo prestigio e scarsissima credibilità, anche perché gli intenti precedenti non li ha mai esauditi fino in fondo. Hanno più credibilità altri paesi. Di recente leggevo per esempio che il Portogallo si vantava della sua credibilità, ed è giusto che sia così. Ha più credibilità in questo caso la Spagna, lo stesso Zapatero, vedremo poi se vincono le elezioni popolari. E quindi c'è questo elemento che probabilmente misure simili, ma forse leggermente diverse, credo, prese da un altro governo con un altro Presidente del Consiglio italiano, avrebbero maggiore possibilità di essere giudicate in maniera positiva dai mercati. Dalla credibilità alla fiducia, quella che nuovamente il governo pone per il voto del maxiemendamento che contiene le misure indicate e promesse sul fronte europeo. Ieri mattina il punto di Elisabetta Fioreto. La maggioranza perde pezzi a Montecitorio. Il governo si prepara al voto di fiducia sul maxiemendamento e il Quirinale vigila attentamente sull'attività parlamentare. Tradotto, al primo incidente si apre la crisi. A Cannes Silvio Berlusconi cerca di rassicurare l'Europa. Intanto si prepara al primo voto al Senato, dove i numeri sono più sicuri, ma è alla Camera che Alessio Bonciani e Ida D'Ippolito lasciano il gruppo PDL per aderire all'UDC e Domenico Scilipoti ancora non sa come voterà. E non lo so, potrei votare sì come potrei votare anche no. Tutto questo dopo la lettera dei dissidenti PDL al Premier che chiede un cambio di passo. Giorgio Straguadagno smentisce un colpo alle spalle. Il nostro è un tentativo serio di evitare una deriva pericolosa, quella delle elezioni anticipate per assenza di soluzioni. Io parlo di temi, non di occasioni. Se volevo fare un agguato lo facevo. Mentre il segretario PDL Angelino Alfano è convinto che la fronda rientrerà. Quindi si tratta di una discussione interna che sono convinto si risolverà positivamente. Parlamentari che non sono usciti dal PDL. Intanto proseguono le consultazioni parallele al Quirinale. Il capo dello Stato Giorgio Napolitano vede proprio Angelino Alfano, contrario a Ribaltone e i leghisti. Umberto Bossi tuona, meglio elezioni anticipate che governo tecnico. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dalle agenzie Aurora Galandice, cioè credo che durerà oltre il 16 novembre, insomma naturalmente è il tempo dei commenti. Calderoli dice sistemiamo misure anticrisi e poi al voto, ma prima di voltare pagina riepiloghiamo la situazione attraverso i contenuti delle iniziative che il governo deve prendere sulla base degli impegni assunti. Ci aiuta in questo Vincenzo Miglietta. Un percorso in tre tappe, quello del governo per dare risposta alle richieste dell'Europa. Prima un maxiemendamento alla legge di stabilità, poi un decreto per lo sviluppo, quindi un disegno di legge con le riforme strutturali. Le prime misure approvate dal Consiglio dei Ministri arriveranno lunedì al Senato. Si partirà dal riordino degli ordinamenti professionali. Questi dovranno essere riformati entro 12 mesi. La bozza all'esame dei tecnici del governo prevede poi la liberalizzazione totale delle attività economiche, la dismissione del patrimonio immobiliare. Arrivano le zone a burocrazia zero ed un programma dedicato per le aree di crisi, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per attrarre nuovi investimenti. Credito di imposta per la ricerca scientifica, proroga quindi di 3 anni degli incentivi fiscali di efficienza energetica, controllo delle forniture con l'obiettivo di un calo delle bollette di gas e luce, più impulso alla banda larga. Nasce un'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese che prende il posto dell'ICE. Stretta sulle polizze RC Auto Fantasma, l'area dei cantieri dell'alta velocità diventa strategica, vengono cancellate le commissioni su carta di credito e pago bancomat, defiscalizzazione di IRES ed IRAP per le società concessionarie. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Punto e a capo. Grazie a Vincenzo Miglietta, siamo quasi in conclusione, però vorrei almeno citare una notizia da internazionale che non sia ovviamente europea, legata alla crisi, perché questa è anche la settimana e va messo, diciamo, tra le cose da archiviare nella memoria, la settimana in cui dopo 8 mesi la NATO ha posto fine all'intervento militare in Libia. Non siamo abituati, pensiamoci un attimo, ad avere un inizio e una fine di un'azione militare. A sottoscrivere la chiusura delle operazioni militari, Anders Fogh Rasmussen, quindi il segretario dell'Alleanza Atlantica, è giunto a Tripoli all'inizio della settimana, scortato da 2 Mirage. Come dire, la Francia che sottolinea quello che è il ruolo e l'iniziativa di un'operazione che era iniziata proprio con un'operazione contro una colonna gheddafiana da parte dei Mirage e che si conclude in questo modo. Sentiamo il punto di Alberto Negri. Ma sì, direi che questa missione del NATO si chiude come iniziata. Era cominciata con i raid francesi dei Mirage su Bengasi, sui carri armati di di Gheddafi e si conclude con questa visita di Rasmussen che è arrivato a Tripoli con un C-130 scortato dai Mirage francesi, per l'appunto. È la fine di una missione, ha dichiarato Rasmussen, e dovrebbe continuare l'ONU, dicono. Ma sappiamo che c'è già una proposta sul tavolo per una missione fatta da cosiddetti amici della Libia, promossa dal Qatar. Forse ci sarà anche quello dell'ONU, ma sicuramente, per esempio, questa missione libica che chiaramente ha avuto come protagonista la NATO, gli europei con i francesi e gli inglesi, vede anche l'ascesa di stati del Golfo, appunto come il Qatar, che sono diventati un po' protagonisti anche della scena internazionale. Siamo arrivati alla capolinea di questo appuntamento, grazie da Gigi Donnelly di essere stati con noi, da Peter Bescapè, subito GR24, gli aggiornamenti naturalmente ripartendo da Genova. Buon fine settimana.